in terms of our practice, metta would seem to be the second most important thing that the Buddha taught. Per quanto riguarda la nostra pratica, la metta sembra essere la seconda cosa più importante che ha insegnato il Buddha. I'm thinking mainly of his teachings for lay people. Ho in mente soprattutto i suoi insegnamenti alle persone laiche. I remember that the discourse on how to establish awareness was first taught to lay people. Ricordate che questo discorso su come stabilizzare la consapevolezza è stato pronunciato a delle persone laiche inizialmente. So there are two paths. One is to do with developing concentration into what we call the jhanas. Quindi ci sono due tipi di sentiero. Il primo è quello che riguarda la concentrazione, ovvero lo sviluppo di quello che chiamiamo i jhana. The jhanas just very quickly are ecstatic states of mind. E i jhana sono degli stati estatici della mente. And combined with that was our vipassana. E insieme a questo, integrato con questo, c'è la nostra vipassana. But he also taught a vipassana only path. Ma ha anche insegnato solo la vipassana. And metta was perhaps his most important teaching after that. E la metta è stato forse il suo insegnamento più importante dopo la vipassana. Now when we are practicing vipassana, we develop equanimity. Quando pratichiamo vipassana, stiamo sviluppando l'equanimità. And equanimity is the ability to be fair-minded, open-minded, open-hearted. L'equanimità è quella capacità di essere, di avere una mente equa, una mente aperta e anche un cuore aperto. It's like you are a spectator at a football match, but not supporting any side. È come se voi foste uno spettatore in una partita di calcio, ma non state tifando per nessuna delle due squadre. Now the problem with equanimity is that it can corrupt into indifference. Il problema con l'equanimità è che potrebbe trasformarsi e corrompersi, diciamo, e diventare indifferenza. So we have to re-engage with this body, heart, mind. Quindi dobbiamo di nuovo rientrare in contatto, quindi riimpegnarci con il nostro corpo, cuore, mente. We have to create this personality. Dobbiamo creare questa personalità. And then we have to act in the world. E poi dobbiamo agire nel mondo. And our wisdom translates into attitudes. E la nostra saggezza poi si trasforma in attitudini. And the four great attitudes are love, compassion, joy, and equanimity. E queste quattro grandi attitudini sono appunto la benevolenza, la gioia, la compassione e l'equanimità. And they're known as illimitables. E sono chiamati illimitabili. Because there's no end. We can develop them indefinitely. Perché non hanno una fine, noi li possiamo sviluppare all'infinito. If you think of numbers, no matter how big a number you can conceive, you can always add one. Se pensate ai numeri, per quanto il numero sia grande, ne potete sempre aggiungere uno. They're also known as the Brahma Viharas. E sono noti anche col nome di Brahma Viharas. So the Buddha demoted Brahma from being the creator god to being the highest of the gods. Quindi il Buddha ha, come dire, definito Brahma dall'essere un semplice dio a essere il più grande degli dei. And so these are the highest mental states that we can achieve. Quindi questi sono gli stati mentali più elevati che possiamo raggiungere. Now, metta is goodwill. Quindi metta significa benevolenza. Sometimes you see it translated as loving kindness. A volte la si tradotto come gentilezza amorevole. But this gives you its emotional value. Ma questo le dà un valore più emotivo. Its real thing is the will, goodwill. Questo in italiano è un po' difficile. Comunque, in inglese goodwill sarebbe una volontà buona, quindi la benevolenza è una traduzione più adeguata, sì. Perché c'è questo aspetto della volontà. Mm. Now, this goodwill is all the attributes that you would expect of a good friend and of yourself as a good friend. Quindi questa benevolenza corrisponde a tutte le caratteristiche che uno vorrebbe trovare in un buon amico o in se stesso come buon amico. And you can see how the other two illimitables arise naturally. E potete vedere come gli altri due cosiddetti illimitabili sorgono naturalmente. Mi stavo chiedendo se illimitabili si dice in italiano, ma penso di sì, no? Senza limiti praticamente. Mm. So if a friend falls into misfortune one wants to help. Se un amico ha una sfortuna o cade in disgrazia, naturalmente lo vogliamo aiutare. And if they have good fortune, you're happy for them. E se invece hanno una buona fortuna, allora noi siamo felici per loro. Hmm. You rejoice in their winning the lottery. Noi gioiamo nel fatto che loro hanno vinto la lotteria. And you don't want a penny. You don't want a penny. E non chiederete neanche un centesimo. So this is a sympathetic joy. E quindi questa è la gioia compartecipe. Mm. And remember, we can also have this joy for ourselves. E ricordate che questa gioia possiamo averla anche per noi stessi. So we develop this by just creating phrases of goodwill within our hearts. Quindi noi creiamo questo stato semplicemente pronunciando delle parole di benevolenza nel nostro cuore. Mm. And in your list you have the traditional blessings. E nel vostro elenco avete queste benedizioni tradizionali. Mm. So everybody wants to be safe. Tutti vogliono essere al sicuro. You know, safe from physical harm, safe from financial problems. Sì, al sicuro da danni fisici o da problemi finanziari. And also from problems that arise within ourselves. E poi anche sicuri da problemi che possono sorgere dentro di noi. Mm. Everybody wants good health. Tutti noi vogliamo essere in buona salute. Everybody wants to be happy, free of mental distress. Tutti vogliono essere felici e liberi dalla pena mentale. Mm. And you know, to live a life of ease. Tutti vogliamo vivere una vita piena di agio. Mm. Not an easy life, but at ease. Che non vuol dire una vita facile, ma una vita con dell'agio, con una vita serena, si direbbe in italiano. Serena. Mm. Serene. So appagate, sì, and in pace, also in harmony with the world, in peace with the world, in harmony with the world. Quindi anche con un rapporto di armonia, in armonia con il mondo. Even when the world is not so happy a place, we still work with it. Anche se il mondo non è un posto così felice, però noi continuiamo a lavorarci assieme. Mm. So remember, don't worry how your heart feels. Quindi ricordate di non preoccuparvi di come si sente il vostro cuore. You might feel a little depressed, a little anxious, or you might feel nothing at all. Potreste essere un po' depressi, un po' ansiosi, potreste non sentire nulla. Mm. It doesn't matter, you see. In realtà no, questo non importa. So whatever mood the heart is in, if it's negative, we just put it to the side. Quindi in qualunque stato d'animo si trovi il cuore, se è negativo, lo mettiamo semplicemente da parte. Mm. And by using our minds, see this is different from Vipassana, by using the imagery in our minds, we develop this goodwill. E quindi utilizzando le nostre menti, quindi la capacità immaginativa della mente, e in questo è diverso dalla Vipassana, noi sviluppiamo la benevolenza. Mm. So as we go through these different categories, man mano che scorriamo, diciamo, tocchiamo queste categorie diverse. So just allow the mind to offer you images. Permettete alla mente di offrirvi delle immagini. And offer them your goodwill. e offrite a queste immagini la vostra benevolenza. So remember, whether it affects them or not is not important. E poi ricordate che se questo abbia un effetto sulle persone che indicate oppure no, questo non ha importanza. What's important is we're developing within ourselves this attitude. Per la cosa importante è che noi stiamo sviluppando dentro di noi questo atteggiamento, questa attitudine. If you think of how you might prepare yourself for an interview. Immaginate a come voi vi preparereste a un colloquio di lavoro. So the interview very rarely goes the way you expect it. Molto raramente il colloquio va come voi ve lo aspettate. But your attitude is right. Ma il vostro, la vostra attitudine è giusta. And you always get the job. E avrete sempre il posto di lavoro. So, just bringing yourself to a calm, peaceful state. Quindi portatevi ad uno stato calmo e pacificato. And remember, you can change your posture. E ricordate che qui potete cambiare la posizione. And just gently repeating the phrases. Quindi molto così dolcemente, delicatamente ripetiamo le frasi. So remember, it's easy to offer goodwill to our benefactors. Ricordate che è facile offrire benevolenza ai nostri benefattori. Because we feel gratitude towards them. Perché abbiamo un senso di gratitudine nei loro confronti. So this is a good place to begin. Quindi questo è un buon luogo da cui cominciare. So let's bring to mind our benefactors. Portiamo alla mente i nostri benefattori. And just gently repeat those phrases towards them. Delicatamente ripetete queste frasi nei loro confronti. E le persone care. Gli amici e i colleghi. Persone neutrali. Stessi. And remember that if you feel negative, if you feel some self-hatred or anything like that, self-aversion, just put that to the side, and it helps to put your hand on your heart Mi ricordate se qui nasce un senso di giudizio negativo su se stessi o di odio per se stessi o avversione? Allora mettetelo da parte, e può essere utile anche mettere una mano sul cuore. Persona difficile. Now we can begin to radiate it out more generally. Adesso possiamo cominciare a irradiare la metta verso l'esterno in maniera più generale. And as we get further and further, it's more a generalized view of the area. Man mano che ci allontaniamo, diventa una visione più così generale di tutta la zona. Sometimes we lose images of people. A volte perdiamo le immagini mentali delle persone. But again, it doesn't matter. Non ha importanza. By the time we get to all peoples of Europe and all people on Earth, it's more that sense of radiating our goodwill out towards infinity. Man mano quindi che ci allontaniamo, quando arriviamo alle persone in Europa, poi in tutto il mondo, è più un senso così di irradiare la metta all'infinito, verso l'infinito. And we're developing that goodwill, you see, towards everybody and anybody. Quindi stiamo sviluppando questo senso di benevolenza verso tutti, qualunque persona. And it doesn't matter, you see, whether we like them or not. E non ha importanza se queste persone ci piacciono oppure no. It doesn't matter whether they like us or not. Oppure se noi piacciamo a loro. Now this is the meaning of love your enemies. Ed è questo il significato del ama il tuo nemico. Yes, you don't have to like them, remember. Non vi devono necessariamente piacere. But at least you can offer them goodwill. Però almeno gli potete offrire la benevolenza. So let us begin with each other. Quindi cominciamo a offrire metta gli uni agli altri. Persone nella, nella nostra zona, nostro paese. Tutti i popoli d'Europa, tutte le persone sulla terra, tutti gli esseri in tutte le direzioni. And there is another version here that we can practice. It's another way of offering goodwill. C'è un'altra versione qui che possiamo praticare, un altro modo di offrire la gentilezza, la benevolenza. So again, just gently repeating these phrases. No, possiamo delicatamente ripetere queste frasi. First of all, to ourselves. Innanzitutto a noi stessi. So it's may I be free of greed and selfishness. Che io possa essere libero dall'avidità e dall'egoismo. May I be free of anger and ill will. Che io possa essere libero dalla rabbia e dalla malevolenza. May I be free of fear and anxiety. Che io possa essere libera dalla paura e dall'ansia. May I be free of ignorance and delusion. Che io possa essere libera dall'ignoranza e dall'illusione. May I be kind and gentle. Che io possa essere gentile e sensibile. Sympathetic and benevolent. Comprensiva e benevola. May I be forgiving and compassionate. Possa essere indulgente e compassionevole. May I be joyful and rejoice in the success of others. Possa essere gioiosa e possa rallegrarmi del successo di altri. May I be peace-loving and calm. Che io possa essere un amante della pace e della calma. May I be liberated of all my sufferings. Che io possa essere libera da tutte le mie sofferenze.